Di Delio Tessa, Ciana. Piove? No, piove no. L'el vent. Par che pieva, ma l'el vent che passa. E se guardi fuori, sura la tenda, vedi i pian che se muove. Ciana, pensi alla ciana in che e mi domandi ora de là della murella, ora giugheni fie giugheni nascondes ora e mi disi in tanti an te mai visto una povera tusa come la ciana. Morta la mamma, morte il papà, morte il soro Bianella, morta la sua sorella, più né ca né parent, sempre in Sondria, sempre in strada, chi l'è venuta, là l'è andata. Popi? Senti passi del popi sulla sabbieta. Popi? Dalla finestra. Su, merenda! Sbat i veder. Ansarà la finestra. Ucciamà i camerer del Böch. Quella bionda che la veniva lì in settembre, con me. Sì, sì, sì, quella tusa granda. La se vede più? No, la se vista più. Sapen. Sapen adesso. La sapa. Sap. Sap, in la terra sfunden, sapen i scep, paregenin del giardin, preus per la primavera. Ciana, gumenta, mo quante se andata via, e te fa su quel to famus pac, cunt la curdeta. Denter, se mi ricordi, gera dugi punit, una panciera, una vestaglia do pantoful, di cavalit spurk, una scatuletta veuia de camel, una michetta farsida, e l'era tut quel che te gavevet. Sap, sap, odor umed de moviment de terra, minga i fiur, minga i scep, minga i preus neuf per la primavera. Sap. Sap. Ma par che sapen in tomba. Amen, che non te siet, come m'han dit, malada. Ciana, te vedi andà. Sula, con tel to pac e il to faciun de tomba. Rompe eternamente bala la gente. Musin, scurtada de do parol e de du gipunit. Nan, rebutada, casciada su come tutti i pover Crist. O mai vist, ciana, una povera tusa. Come ti. Delio Tessa, Ciana. In pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International.